regina sposa. Non temere che inganno. So ben io qual fa per me, qual fa per me, qual fa per me. Sarò tua regina e sposa, regina e sposa. Non temere che inganno. So ben io qual fa per me, qual fa per me. L'inganno. So ben io qual fa per me. Sarò tua. L'inganno. So ben io qual fa per me. Ama pur bocca amorosa. Se ben io non la do. So, you know, I'll be there, I'll be there, I'll be there.